快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有线调频98.6兆赫，欢迎收听。送生命，舞动青春，歌舞剧场，人生。 妈妈 soltanto felice perché ritorno da te。 sera che cammina per ogni umana sorte. Ecco già mi avvicina all'ora dell'amore, e forse prima che l'ultima mia strofe sia finita m'annuncerà il carnefice la fine della vita. Sia strofe ultima te, ancor dona il tuo poeta la spalcante idea. No! cadea fra le braccia. Il tuo signore. Sous cette Ave Maria, I miei sospiri con Yeah. Pietà, pietà, soccorrimi. Thank you. l'amore della Vergine, l'amore della Dea, sì, ma il real fu dolore e l'ideal fu sogno. Giunto sul passo estremo della più estrema Thank you. 音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话。请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 欢迎继续收听歌舞剧场，在接下来的节目中，请欣赏帕瓦罗蒂演唱的著名歌剧咏叹调。 Thank you. m'accuser des blasphèmes.

la sfera che cammina per ogni umana sorte. Ecco già mi avvicina all'ora della morte, e forse pria che l'ultima mia strofe sia finita, ma annuncerai la carnefice la fine della vita. Sia strofe ultima dea, ancor d'ora al tuo poeta, ascolta corante idea, thank you. Oh.